C'è qualche storico dei nostri giorni che parla della predicazione di Giacomo in Spagna e della presenza del suo corpo nel nostro paese? Non sappiamo nel secolo XXI com'era il commercio delle reliquie o quando iniziarono le prime comunità cristiane, che inizialmente erano gruppi di ebrei e non una nuova religione. Che resti cristiani esistono prima del Concilio di Efeso, degli Apostoli, di Cristo? Ce n'è qualcuno? Dove? Per caso ci sono prove della presenza a Roma di Pietro o di cristiani nel primo secolo? E nella Galizia barbara che andava romanizzandosi, mentre in Oriente già dibattevano i padri della prima chiesa? Gli Atti degli Apostoli collocano il luogo della predicazione di Giacomo il Maggiore in Giudea e Samaria, fino al suo martirio in Gerusalemme, intorno all'anno 44 d.C., durante il mandato di Erode Agrippa. Come Galileo e come il suo Messia, il suo accento sarebbe inconfondibile e poco apprezzato a causa della fama di popolo bruto, tralasciando il fatto che la Galilea era un crocevia di cammini e culture con una popolazione molto mescolata a causa dei processi di espatrio massiccio dalle antiche invasioni ben documentate. I giudei di Giudea non si può dire che li stimassero. Nel Medioevo, come per molti santi, nacquero molte tradizioni sulla sua vita e opere. Il Breviarium Apostolorum, creato nel sud della Gallia o nord Italia intorno al secolo VII, è uno dei primi testi che parla della presenza dell'Apostolo in Spagna. Una leggenda sosteneva che era l'evangelizzatore della Spagna e delle regioni occidentali del Mediterraneo, aiutato da 7 discepoli. Si produce una contaminazione tra il racconto della divisione del mondo tra gli apostoli per predicare il Vangelo e la leggenda dei 7 uomini apostolici che sarebbero stati ordinati in Roma da Pietro e Paolo e inviati in Spagna, aderendo all'idea di una missione diretta di un apostolo di Cristo. 7 discepoli riconobbero il Cristo risuscitato mentre pescavano, secondo il racconto di Giovanni. Questa scena potrebbe benissimo essere la stessa icona romanica della traslazio del corpo di Giacomo dalla chiesa di Cereixo, la chiesa romanica di Santiago de Cereixo, lungo il cammino in prossimità del paese di Vimianzo, con l'imbarcazione Galilea trasformata nella barca che porta Giacomo e una rete stesa, o Jarf, pescatrice del pesce del Mar di Galilea, trasformata nel suo supposto corpo. I 7 dell'ultima cena della porta sud romanica della chiesa di Moraime, chiesa romanica sul cammino appena fuori dal paese di Muscia, o i 7 apostoli della sua porta occidentale, bevono da questa tradizione. I 7 discepoli che portarono il corpo dell'eretico galaico Prisciliano in Galizia nel 385. L'arte si trasforma e copia e si reinventa sul tempestoso mare dei miti e leggende. Fu un lento processo a portare le minoranze cristiane a convertire il mondo pagano alla nuova fede, un processo perseguito dall'emergente monachesimo medievale. Quindi non fu la prima opera apostolica praticamente inesistente fuori dal suo ambito nativo orientale. Non ci furono comunità cristiane in Roma durante la vita degli apostoli, né Pietro raggiunse Roma, né Giacomo l'Occidente. Si parla di 9 discepoli dell'apostolo, aggiungendo Teodoro e Atanasio, che si sarebbero fermati in Spagna, mentre gli altri tornavano a Gerusalemme. Beato di Liebana, intorno al 788, definisce Giacomo patronus Werenulus e tutor di Spagna. La prima notizia che il suo sepolcro fosse in Galizia la troviamo nel martirologio di Saint-Germain-des-Prés, terminato nell'865 d.C., molto vicino alla data del suo, tra virgolette, ritrovamento. Come afferma la professoressa Falke Rey, è paradossale che i manoscritti più antichi della Historia Compostelana non portino menzione dell'opera apostolica di Giacomo in Spagna, narrando il suo martirio e il trasferimento dei suoi resti. Nell'anno 2004, durante i lavori per climatizzare la chiesa dell'antico monastero di San Pedro di Soandres, nel municipio corugnese di Laracia, furono scoperte 2 tavole d'altare di pietra sotto l'altare maggiore. Ciascuna era formata da una grande pietra tombale sostenuta da 5 colonne. Questa quinta colonna alimenta i sogni dei ricercatori, poiché non serve a nulla. però si adatta all'antico costume medievale di depositare le reliquie di un santo nell'atto di consacrazione della chiesa o degli altari, funzionando come vero e proprio sepolcro che conferisca sacralità al luogo e all'intorno. La tavola d'altare è il simbolo di Cristo, per questo le reliquie dovevano essere sistemate lì e i due supporti centrali degli altari funzionavano come sepolcri. Nell'altare sinistro fu scoperta una cassa di legno circolare al cui interno c'erano altre due cassette conosciute come lipsanoteche avvolte in un panno rosso. Una di queste urne conservava le reliquie del santo, mentre nell'altra si trovavano solamente i resti della pergamena in cui era indicata la data e il nome del santo. Il monastero di Soandres, ubicato nella via al porto di Corugna, la capitale della Galizia, nelle sue origini è vincolato alla casa dei conti Traba. Tra i benefattori del tempio ci fu, con proprietà documentata, un ordine che con ogni probabilità si formò in seguito all'arrivo di alcune reliquie. In ogni caso, già il commercio di ossa e reliquie nel Medioevo era un puro imbroglio, iniziato con ottimi risultati ai tempi di Santa Elena dai bizantini, grazie a ottimi contatti con gli svevi di Galizia. Ciò che metto in risalto in questo paragrafo è che per rispettare i concetti della simbologia sacra, le reliquie devono trovarsi sotto l'altare maggiore. Nella cattedrale di Santiago non c'era nulla in questo luogo e tantomeno trovarono qualcosa di simile coloro che 100 anni fa fecero la scoperta, tra virgolette. Un arcivescovo sostenne di aver trovato le supposte ossa che oggi veneriamo nella falsità, a mezzanotte, nel sottosuolo della cattedrale, dopo 3 secoli di occultamento. L'Europa si creò camminando verso ovest, a Compostela, un sito rituale antico in un paese mitico sacro. I capi Yaminiti e i re di Zalmacum compirono pellegrinaggi al santuario di Sin, nell'alveo dell'Eufrate, per firmare un patto nella festa dell'anno nuovo mesopotamico. Questo ha testimonianza scritta, ma quando non esiste un testo, l'archeologia ha la sua voce in capitolo. Così sappiamo che anche Stonehenge fu un sito di pellegrinaggi, con un abitato vicino dove apparvero anche resti di pellegrini giunti dall'Iberia. Come santuari famosi furono quelli di Ishtar a Ninive, di Inanna e Enlil in Nippur. Gli Ittiti confluivano al tempio della Dea Sole, gli Egizi a quello di Osiride, i Greci a Delfos o Eleusi. Gli Indù avevano i loro templi vicini ai fiumi o andavano al tempio di Mathura, l'ottava reincarnazione di Vishnu in Krishna. Così ci fu un tempo in cui tutta l'Europa andava in pellegrinaggio a Compostela. La situazione strategica di Compostela, nel centro della Galizia romana e sveva, e la possibilità che quel luogo fosse nella protostoria dei popoli galaici preromani un luogo di incontro alla confluenza dei popoli dei Copori, Artabri o Nerii Celtici, rafforzò le basi del suo futuro come centro religioso e di potere. Studi attuali parlano dell'importanza di alcune nuclei come oinakoi, ossia punti di incontro di tribù collegate tra loro, luoghi di assemblea di 3 gruppi tribali. Questi punti di incontro regionali tra 3 distretti avrebbero potuto dare luogo in epoca medievale all'esistenza di centri organizzatori intorno a una cappella e un bosco, come quelli corugnesi di Santa Comba, Treos, Sereiscio, Ponte d'Oporto, Vimianzo, D'Umbria e Noia. E nacque Santiago e i santuari ancestrali della Dea. Predicò davvero Giacomo Santiago in Spagna? Fu davvero il suo corpo trasferito e sepolto in Galizia? Che segreto conserva oggi la tomba compostelana? Come e perché nacque il mito e chi ne sono gli autori? In quest'opera c'è un notevole lavoro di investigazione sul campo. Siamo nel XXI secolo, mi pare. Non ci sono né fantasmi né draghi. Una cattedrale, un dolmen, un manoscritto. Tutto è creato dalla mano dell'uomo. E quest'uomo appartiene a una nazione, a una cultura, a un idioma. Nella tempestosa mappa della storia troviamo la Spagna. In questo libro c'è molta chiarezza che nessuno può controbattere. Giacomo non venne mai in Spagna. Il suo corpo non fu mai né trasferito né tantomeno interrato a Compostela e oggi la tomba è vuota. Tuttavia la città di Santiago de Compostela mantiene altri valori. È padrona di un passato mitico, è un centro di cultura e di fede, è una meravigliosa creazione umana nel tempo, materiale e immateriale. È il bosco sacro di un cammino millenario che si aggancia alle sue origini e si mantiene vivo. I promontori galaici sono spazi sacri fin dall'età del ferro, la lunga notte indoeuropea. Compostela, in terra di nessuno, come i santuari celtici, sorge sopra a Lugo, la capitale spirituale, poiché è un luogo dal quale si può creare con maggiore libertà in terra sacra, in una delle fini della terra, nel cammino verso la discesa del sole. La conchiglia è una mano aperta, sono i raggi del sole all'alba, il Sol Invictus per l'appunto che adoravano i romani come signore delle vittorie. Quella del generale romano Bruto verso i Galaici, una tribù bracarense che dà il nome a una provincia intera e poi a un regno. La conchiglia è Afrodite, la materializzazione delle forze, della fecondità e della vita, un simbolo trifunzionale come gli dei della lunga e oscura notte indoeuropea. Il cammino di Santiago, tanto importante durante il Medioevo, fu mortalmente ferito dopo la riforma protestante e le guerre di religione. Smisero di venire gli inglesi, i germani, i nordici, i camminanti precristiani. Divenne solamente un luogo di visita di curiosi, nobili e eruditi, né tantomeno ci venivano più gli spagnoli. Alla fine del secolo XIX era un sito morto. Era l'epoca di attacchi furibondi alla Chiesa, della fine degli Stati Vaticani, del positivismo e del liberalismo, della reazione cattolica alla nuova spiritualità, la potenza dei santuari mariani. In questa atmosfera l'arcivescovo compostelano Payà decise di recuperare quella vecchia tradizione di peregrinare a Santiago. E per fare questo, come già a suo tempo il vescovo di Iria e il re delle Asturie, ha bisogno di trovare, tra virgolette, i resti dell'apostolo, nascosti 3 secoli prima per evitarne il furto. Dall'estate del 1878 cominciano gli scavi diretti proprio dal prelato e continueranno inchieste giudiziarie negli 8 mesi successivi, quando alla fine di febbraio 1879, in piena notte, il vescovo e i suoi operai scoprono un ossario dietro l'altare della cattedrale. Sotto una stele tombale di granito gallego di 8 centimetri, con una croce circondata di mattoni, erano accatastate alcune ossa umane. Alla fine appaiono alcune ossa nella notte fallace, sepolti in una maniera molto poco decorosa. Tutto il processo durò 4 anni e il 12 marzo 1883 il cardinale presentò il decreto di conclusione nel quale sancì che le ossa scoperte erano le reliquie vere e realmente appartenenti ai corpi del Santo Giacomo Apostolo, figlio di Zebedeo, fratello di San Giovanni Evangelista, e dei suoi discepoli, i santi Atanasio e Teodoro, che pertanto sono degni di culto religioso. A questo decreto seguì il processo in Roma. Il Papa approvò la procedura di riconoscimento e personalmente annunciò al mondo la notizia per mezzo di una bolla, invitando a intraprendere nuovamente i pellegrinaggi a Compostela. Per celebrare il ritrovamento delle reliquie, dichiarava l'anno 1885 anno santo straordinario. I resti, rinvenuti nella cattedrale di epoca romana, sono tardi, come la cronologia di tutti i mosaici galaici datati nel secolo III e IV d.C. Quanto al mosaico della cattedrale, del mausoleo dell'Apostolo Giacomo, si esce da questo tipo di rappresentazione. È un pezzo a sé stante. In tutti i casi, i resti archeologici localizzati ci conducono al secolo IV d.C. e non all'epoca di Giacomo o dei suoi possibili discepoli. Possiamo schematizzare che nell'opera di scavo del 1878-79 e del 1946-59 si scoprirono la localizzazione del sepolcro o mausoleo, una necropoli più ampia con strati più antichi del secolo IV, materiale romano appartenente alla casa Seconia che occupava il distaccamento della città medievale e l'inumazione del vescovo Teodomiro connesso alla prima chiesa compostelana. Gli scavi moderni, iniziati negli anni 50 del Novecento nella cattedrale di Santiago, portarono alla luce una planimetria dello stato della collina dove nell'anno della cometa 837 un eremita scoprì le rovine di una tomba romana della famiglia di Atia Moeta, una signora del popolo preromano dei Copori che deteneva il potere. Questo mausoleo sappiamo che conservava i resti di sua nipote Viria, morta a 16 anni. Sotto i rosoni della cattedrale apparvero dati che confermavano l'esistenza di un consistente stanziamento romano di epoca sveva, una necropoli alto medievale. In Santiago ci furono alcuni secoli fa delle reliquie risalenti alla tradizione del primo cristianesimo ispanico che furono attribuite a Santiago e che furono localizzate in Iria, giunte da Merida. A causa delle vicissitudini storiche non ne rimane nulla, però l'urna che le conservò nei confronti della fede conserva lo stesso valore, come la tomba vuota di San Paolo a Roma. Questo è oggi Compostela, una tomba vuota e un memoriale. Ciò che si conserva oggi nell'ermetica cassa d'argento della cripta proviene da una necropoli altomedievale sotto la cattedrale posteriore di un bel po' rispetto alla vita e all'opera di San Giacomo. È un assunto realmente contrario alla ragione pensare a una qualche possibilità che Giacomo predicasse in Spagna e men che meno nella parte occidentale della penisola, un territorio barbaro e non pacifico, specialmente tenendo conto dell'attività dell'apostolo nella sua terra, la sua opera nella comunità giudea dei circoncisi, la sua figura di spicco nella chiesa di Gerusalemme nel breve periodo di tempo della sua vita dopo la morte di Gesù, 14 anni nel migliore dei casi. Giacomo assegnò ai suoi seguaci la missione di evangelizzare i confini della terra e la comunità che lo considerava un leader col tempo inviò predicatori ai confini estremi dell'impero romano, lungo la via marittima, ora morta, da Alessandria a Cartagine e al sud della Spagna. Nella copia più antica del martirologio geronimiano abbiamo la versione di tutta la vita, quella versione che si avvicina alla fonte e che indica che Giacomo predicò in Gerusalemme. L'opera è dell'inizio del secolo VIII, precedente l'invasione islamica della penisola. In seguito i codici di Berna e di Wissenburg, posteriori, introdussero il nuovo dato della predicazione ispanica. La motivazione è tanto chiara come è evidente la falsificazione della notizia. In ogni caso, non si parla di un corpo trasportato in Spagna, bensì di reliquie, di ossa, di sacre ossa. Non c'erano cadaveri di uomini antichi in Galizia, né resti ossei, fino al ritrovamento nel 2010 di ossa e materiale preistorico. Quello che si conserva nella cattedrale non è un'eccezione. Ciò che c'era nel Medioevo è un'incognita, si è perduto. Dietro alla creazione del mito c'erano politica e religione, la monarchia asturiana e la Chiesa, Cluny e Borgogna, Chelmires e i re castigliano-leonesi con la loro crociata contro l'Islam e centinaia di anni di tradizione pellegrina miracolosamente viva e rafforzata oggi come cammino di molti e per molti. La predicazione di un apostolo cristiano nel nord-ovest peninsulare nel secolo I non può davvero essere oggetto di dibattito tra storici seri. L'archeologia porta i primi testimoni cristiani di questa regione al secolo IV, cosa confermata dai lavori degli storici moderni. La Galizia, il Finisterre, è un luogo ancestrale di arrivo dei camminanti da millenni. Qui lasciarono il loro marchio anche curiosi artigiani in templi sconosciuti e uomini come i templari tracciarono un cammino distinto, parallelo. Praticamente tutto ciò che consideriamo mito, simbolo, leggenda giacobea beve in altre fonti molto anteriori e buona parte di questo tesoro bisogna cercarlo guardando al nord e all'est, ai cammini e alle tradizioni dei popoli germanici fin dalle origini dei primi pellegrinaggi. È la via regia, la strada del sangue. Da questa tradizione nascono molte leggende e canti, la conchiglia, il cammino delle stelle, l'Abendland o paradiso occidentale, barche di pietra, i viaggi meravigliosi, il rogo degli indumenti al Finistère e il rinnovamento spirituale. Ma grazie a tutto ciò, oggi godiamo di una città in pietra, una urbe santa e una delle cattedrali più belle di tutta la cristianità, di un cammino universale al quale l'Europa deve molto. Nella ricerca delle motivazioni alla base della sopravvivenza del Cammino di Santiago e della sua resistenza nel tempo, dobbiamo studiare le origini degli europei e scopriremo le evidenti testimonianze di rotte millenarie, viaggi di uomini e donne dall'est all'ovest, dalla nascita del sole verso il tramonto, il Finisterre di Galizia, regione di miti ed eroi. La Galizia è un regno antico, con una popolazione atlantica tra le più omogenee d'Europa, che si presenta come un'isola genetica in un ambiente mediterraneo, latino. Per questo si identificano con maggior chiarezza i segni di migrazioni che trascendono la storia della comunità, le orme dei passi dei camminanti che seguivano la millenaria via delle stelle fino al Finisterre, la terra della stella, di Venere, della puesta del Sol, il tramonto. Nella nostra preistoria ci furono tre grandi strade di pellegrinaggio. Una attraversava il sud dell'Inghilterra da est a ovest, lungo il Lay, o Cammino Sacro, di Stonehenge. Le altre due terminavano nei Finisterre della Bretagna francese e della Galizia. Quest'ultimo è il più lungo e importante e la base del cammino giacobeo. I popoli dell'est sapevano che la Galizia era la terra della grande Dea Madre. Sopra questa via il cristianesimo creò il Cammino de Santiago. L'immagine guerriera di Giacomo a cavallo, patrono e salvatore del regno, non è nient'altro che lo Jupiter romano e il Lug celta. Il sole che muore nel mare e resuscita in una stella, e Lug viene identificato con il cigno, con l'oca. È suo figlio, il gioco dell'oca, che noi conosciamo come gioco da tavolo, adombra in realtà il cammino di Compostela nel suo ultimo tratto tra Santiago e l'oceano. È un cammino pieno di pericoli, ma anche di ostelli, boschi, fonti, ponti, e termina nel paradiso occidentale dei Celti, che guardando il mare dei promontori sacri della Galizia credevano di vedere le fantastiche isole del Alén, il Masaià, l'altro mondo. Il cammino medievale di Santiago giungeva a questa città, però da lì si divideva in tre strade che terminavano sopra il mare formando un tripode ariano, un triangolo, il tridente di Nettuno che muove le onde, il fratello di Jupiter e padre delle Nereidi del paese dei Celti Neri. Il dio che cavalca le onde sopra cavalli bianchi e fa zampillare fonti e sorgenti. Questi tre cammini di Compostela verso il mare, a Muscia, a Finisterre e a Padron, formano una zampa di oca sotto il segno del 3, il numero sacro ariano. La leggenda giacobea unì l'apostolo con questi tre punti e in quest'area creò e sostenne santuari di pellegrinaggio dedicati curiosamente a icone di Maria su luoghi di culto precristiano. Il mito celta e ariano sopravvisse grazie a questo nuovo esercizio di sincretismo pianificato. La Galizia era un territorio magico, luogo di nascita di antichi dei già migliaia di anni prima del presunto ritrovamento della tomba dell'apostolo. Quando nacque il fenomeno giacobeo, dopo il ritrovamento della supposta tomba dell'apostolo Giacomo, figlio di Zebedeo, nel centro della Galizia, c'erano ancora reminiscenze del vecchio cammino. La Galizia fu cristianizzata tardivamente, molte tradizioni di origine celtica, indoeuropea e neolitica perduravano ancora nel Medioevo e sono giunte fino ai nostri giorni. La Chiesa Cattolica anche qua cristianizzò miti, leggende e santuari pagani e sacralizzò la strada delle stelle, il cammino dell'Oca, di Lug, di Venere, del paradiso occidentale. Incaricato di realizzare questo lavoro di sincretismo di secoli che porrà le basi della creazione definitiva del cammino giacobeo fu l'arcivescovo di Compostela, Diego Gelmírez, insieme ai suoi scribi francesi inviati da Cluny. Contestualmente, il vescovo Gelmírez inviò reliquie del suo Santiago, tra virgolette, a Pistoia e Liegi per fomentare i pellegrinaggi dall'Italia e dai Paesi Bassi. In entrambe le sedi aveva buoni amici, fedeli a Cluny e alla casa francese di Borgogna. Le ossa contenute nei due reliquiari di Pistoia e Liegi provenivano dal corpo che si venerava nella tomba dell'Apostolo in Compostela nel Medioevo. Gallesia fu il nome con cui i Romani identificarono il territorio situato nell'estrema punta nord-occidentale della penisola iberica, abitato da popoli indoeuropei di lingua celtica denominati galaici a ovest e asturi all'est. La Galizia attuale è una parte di questa grande provincia romana, convertita in regno dagli Svevi e posteriormente regno medievale, fino alla sua integrazione in Leon e Castiglia attuali. Le migrazioni di Arii e Celti apportarono tratti culturali singolari nella religione, nella lingua e nel mito. Non furono importanti a livello di etnia, però lo furono nel loro ruolo trasformatore della società e come substrato di un modo di essere e intendere il mondo, il contatto con gli uomini e gli dei. Dalla mitologia sorgono divinità e leggende babilonesi e persiane che nello stesso modo arriveranno ai nostri giorni velate dalla tradizione giudaico-cristiana. Sono in buona parte le basi delle nostre credenze occidentali. Nei Finisterre di Europa, Galizia, Bretagna e Cornovaglia, si conservano occulte per sincretismo. Storie di dei e di eroi, di giganti e draghi, stranamente familiari nei territori gaieghi. Senza dubbio, si tratta di una forma primitiva, non scientifica, di intendere le origini, però molto importante per la base spirituale della nostra civiltà, come fenomeno culturale e per lo studio degli obiettivi di questo libro. Dopo il diluvio della lontana tradizione ariana, rimasero sulla terra sia gruppi umani, i figli di Noè che scesero dalle montagne, sia anche i discendenti di coloro che salirono dall'interno della terra, quegli esseri mostruosi che hanno le radici dei Fomoire irlandesi, gli esseri giganteschi e mostruosi rivali della stirpe divina dei Tuatha De Danann, i Muros galaici. E nacque una razza ibrida imparentata con le divinità. Il fondatore di Babilonia, in accordo con testi antichi e leggende, fu Nimrod, che regnava con la sua sposa, la regina Semiramide. Nimrod è descritto come un poderoso tiranno e uno dei giganti. Nimrod e Semiramide, o chiunque fossero gli esseri identificati con questi nomi, erano del lignaggio dei Titani. Questa razza di giganti o titani si diceva fosse discendente di Noè, il bambino descritto nel libro di Enoch come un essere ibrido con la pelle totalmente bianca. Alcuni popoli gaieghi e cantabri si considerano discendenti dei figli di Noè. Il re Nimrod fu simboleggiato con un pesce drago e la regina Semiramide con un pesce e una colomba. Il nome Semiramis fu sviluppato dalla più antica divinità ariana indo-iraniana Samirama Isi o Semiramis. Il pesce e la colomba sono tuttavia simboli ampiamente utilizzati nei rituali religiosi. Il fiordaliso è il simbolo della trinità babilonese formata da Nimrod, Semiramis e il figlio Tammuz e tra l'altro è simile alla Triskel ariana. Semiramide fu chiamata la regina del cielo, anche Rea, la madre vergine degli dei, la grande madre terra. Era venerata anche col nome di Astarte, la donna che costruì torri. E questo si potrebbe riferire alla torre di Babele in Babilonia che si dice abbia costruito Nimrod o le donne torri di cui Devana parla nel suo Gradal, il segreto della torre, scaricabile gratuitamente dal suo sito. I lignaggi delle famiglie reali europee conservano leggende dei miti riguardanti i lignaggi ariani di Babilonia. A Nimrod fu dato il titolo di Baal, mentre Semiramide era Baal-ti, mia signora. Baal il signore, Baal-ti, mia signora. Nimrod fu anche rappresentato in un doppio ruolo di dio padre e figlio di Semiramide, colui che chiamano Tammuz o anche Ninus. Il suo ramo di ulivo era il simbolo di questa Tale è prodotta attraverso un lieto evento virginale. Tammuz, si dice, fu crocifisso con un agnello ai suoi piedi e sepolto in una grotta. Quando 3 giorni dopo la roccia fu scalzata via dall'entrata, il suo corpo era sparito. Troppa coincidenza col Vangelo? E naturalmente tutti questi temi appariranno nel peculiare romanico del Cammino di Santiago e del Finisterre, ripassato al vaglio del cristianesimo. Questo tema marito, sposa, figlio di Nimrod, Semiramide e Tammuz divenne poi il contenuto mitologico relativo a Osiris, Isis, Horus degli Egizi e il suo equivalente nelle altre civiltà. Molto dopo, la triade si chiamò Giuseppe, Maria, Gesù.